Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình, chương 25, ngày và đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tao Yue Fang Lo Phi Sò Pơ Un Mơ Men Tô E Un Don Che Sorizo E Pap Alangolo De La Sua Bóc Cơ Poi Bây Sò Phót Le Labra De Lomo. Le Labra Di Fang Ye In Erano Choppo Mobit E Tenere Sembrava Che Avesi In Mano Un Pezzo Di Gelatina Sivolosa E Non Poteva Fe Ameno Di Modic Chialo E Rosic Chialo. La Semplice Intersezione Di Labra E Labra Fa Sentai Le Personne In Sodisfet Del Tatto Cin Ue Fang Ha Paura Che Modera Lacan Morbida De Lucellino. Un memorio soddisfatto iusci do su labra sollevò in casino di fang yin con una mano e lancia mano non pote fe a meno di sollevasi dallo della camicia. Fang yin non si vò, ma i suoi occhi erano dritti, fissalo, gli occhi erano e passò sul sopracciglio molto fitto. Familiar es conosciuto, in corpo di cin ue fang e ancora secondato dan dibo odor di te nero che e un po fastidioso e felice. Fang ye in an zo lách gơ mần la tester, secando di stringer cin ue fang, che ir e pogiata alay. Apri lách gơ mần la boca e sphere o la punta de la lingua sala lingua de lancio. Questa azione sembra ispera l'interesse de lancia parte. Poteva non vedo l'ora di far rotolare la lingua di fang yin e di indugie con lei. La punta della lingua si erichiava intorno alla bocca e alla file co in lato superior della parete interna era un modo familiare di versiosi. Fang yin era un po' distratto ed era raro prender l'iniziativa. La sua mano avo in collo di cin ue fang e lo tao strettamente an suo corpo. La punta della sua lingua non era controllata dall'ancia parte cam prima, ma inizio piuttosto ferro mang un tiro alla fun con cin ue fang. A cin ue fang è sempre piaciuto avere in controllo, non importa quando è do. In basio intenso fece sanguinare in sangu cin ue fang senti un po' di intoppidamento sale punta della lingua quindi le si o con riluttanze le labbra de lancio. No, se basia di nuovo così temo che proprio non se la faccia più. Sebben cin ue fang abbia apprezzato la rara iniziativa di fang yin, non gli ha fatto rinunzia a frequente mubai. Abbasso la testa per persuadere in passerotto sotto di lui. A questa vista era un po' soffocato. Le labbra di fang yin erano rosse gonfai per in basio che ricordavano in calo dei papaveri con ambergiu macchie da cua cam petali bagnati. La camicia era semi petat rivelando un grosso peso di pelciara delicata cam una barretta di fiori che aveva appena aperto i petali, e gli incantevoli e disordini scapelli neri erano spassi sul sponso e su collo che era. Sidio sentemen sollevato, si o che rang de le personne un po insopportabili e lo segado nei suoi occhi. Splendido e amalien, la bellezza fragile e ben educator sta rivelando in sec new che pui fe quello che vui e non può smetter di erta e le personne arrivale in lato pecaminoso e confuso. Paparan mang vedendo lecitazione e la lotta di cin ue fang, fang yin an zo lách gơ mần in colo privelando in suo colo bianco e fragile. Le dita solete cơ vano e si volavano nel cuo delle personne esitanti, de le labbra rosse sputano una vers delicata e affascinante. Cosa stai esitando, gli occhi di cin ue fang brillavano di una profonda seduzione, cam un pescatore sedotto da un mostro marino. Oh, beso sinceramente le labbra di fang yin, tesoro, se sei stato così seduzionato in tempo, va bene. Non posso più sopportarlo, non importa quanto lo sopporto, non sono un uomo. Cin ue fang rinunzio alla nuova resistenza e rapidamente ed elegantemente. Cin ue fang sentiva che in suo corpo doveva essere ancora in grado di resistere giorno e not dopo tutto, fang yin non si sarebbe vegato fino alla seconda volta. Fang yin ha evocato un sorriso indifferent quanti chili e quanti tien conosci ancora. đừng sao mà biển mặn, đã nói từ đầu rồi, không nghe thì thôi. Cách chương.